Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di un libro che ricorda un grande imprenditore, l'imprenditore Franco Todini, un imprenditore che ha fatto un po' la storia dell'impresa delle costruzioni italiane con una grande impresa, la Todini, appunto, che è cresciuta soprattutto negli anni 50, 60, 70 fino a diventare un'impresa internazionale. Infatti il titolo del libro è Costruirò le strade nel mondo, l'editrice è Tau. Questo libro è stato presentato ieri a Todini, ne parliamo questa sera con Luisa Todini, la figlia di Franco Todini. Buonasera, dottoressa Todini. Buonasera, buonasera a tutti voi, sono molto emozionata, grazie. E immagino, tra l'altro, in questo libro si apre con un suo ricordo di suo padre, un ricordo anche da parte poi di suo fratello, un ricordo appunto che illustra l'immagine, ma la presenza di questo grande imprenditore nato un po' dal nulla, dato da un'impresa agricola che poi è diventata un'impresa quasi multinazionale. Ecco, qual è il suo sentimento? Certamente emozione ricordare suo padre, però ricordare suo padre come imprenditore. Questo libro vuole appunto mettere in luce questo spirito di impresa e forse questo che vi ha portato a chiedere al direttore del Corriere dell'Umbria di scrivere queste pagine proprio per ricordare suo padre. Qual è il suo ricordo? Luisa Todini. Sì, questa è la storia di un uomo, Franco Todini, nato nel 1933, quindi tra le due guerre, in una piccola frazione che si chiama Quadro, una frazione di Todi. Io colloco subito questo perché immaginiamo che cos'era l'Umbria del dopoguerra, una piccola frazione di Todi, che oggi, mi permetto di dire, è una città famosa nel mondo per tanti motivi. Certo. Però immaginiamo che cos'era all'epoca, quindi una regione piccola e chiusa, lambita da pochissime strade e vie di comunicazioni. In questa storia si racconta un uomo i cui genitori erano i contadini del fattore del padrone, tra virgolette, quindi una sorta di, mi permette di dire, di quarto livello feudatario, quindi un uomo, un ragazzino che non aveva potuto studiare. Io ricordo nel libro che lui, come tanti dell'epoca, aveva fatto, tra virgolette, la terza elementare in campagna perché a 8 anni il braccino era abbastanza forte per andare a lavorare nei campi, quindi tutti più o meno si fermavano alla terza elementare. E alla fidanzatina dei 12 anni raccontava già da visionario: tu mi devi sposare perché io costruirò le strade del mondo. E da qui arriva il titolo, che poi sono strade fisiche e strade metaforiche di vita. Quindi un bambino che non aveva avuto possibilità, soltanto una grande comunità di affetti, e che inizia a mettere da parte i primi risparmi per poter lavorare nel settore agricolo in cui era nato, cercando di meccanizzarlo, quindi con una grande visione di innovazione. E poi che cosa fa? Fa una cosa che all'epoca era quasi vergognosa, tra virgolette, e cioè si indebita, 100.000 lire prestate, poi 300.000 lire, si indebita e firma cambiali. E quindi inizia a usare la leva finanziaria in un momento in cui però la leva non va di moda come oggi, in qualche modo è motivo di vanto dell'imprenditoria e quindi di percorso virtuoso, ma era quasi una vergogna in un piccolo paesino di provincia in cui si deve risparmiare ma non si deve spendere. Attraverso questo e con tanti sacrifici compra che cosa? La prima schiaccia sassi per creare, scusate se uso un termine tecnico, ma la massicciata per fare le strade. E qui termino questo mio primo ricordo dicendo perché. Perché lui capisce, pur non avendo potuto studiare, che l'economia si basa sulla domanda e sull'offerta. Allora, qual è il bene scarso in Umbria? Le strade. E capisce che deve investire nella costruzione delle strade. Poi arriveranno i tanti investimenti che nel dopoguerra verranno fatti nelle opere pubbliche che, come ricordò all'epoca il Presidente della Repubblica Segni, diventavano un grande motore di sviluppo e di occupazione. Certo, era un periodo, quello appunto della ricostruzione, in cui c'era spazio per crescere, ma trovare questo spazio e affrontarlo anche con uno spirito molto concreto. Lei inizia il suo ricordo dicendo: mio padre era un sognatore, ma era un sognatore che poi si dava da fare per realizzare le cose con i piedi per terra. Ecco, lei ha lavorato anche a lungo negli ultimi anni di vita di suo padre con lui, ha lavorato appunto nell'impresa e tra l'altro anche suo fratello ricorda questa sua passione per le cose, ma è anche una passione per le persone. Il titolo del ricordo di suo fratello: mi ha lasciato un'eredità, il senso del rispetto, delle persone, della dignità delle persone, della dignità dei lavoratori. Era questa un'altra caratteristica, possiamo dire, di suo padre. Sì, questo libro si articola nel mio ricordo di mio fratello Stefano e anche di mia madre Maria Rita, che ha lavorato a lungo con mio padre, e poi ci sono una serie di testimonianze di personaggi noti e meno noti, che vanno dal presidente Amato, che ieri ha voluto partecipare alla presentazione del libro, alla dottoressa Moratti, al dottor Profumo, alle prime persone che hanno lavorato con lui o dei suoi collaboratori. Ecco, si articola in queste testimonianze, mini interviste, che tutte hanno un filo conduttore, cioè la grande umanità di mio padre, il grande senso di squadra, il team up, che oggi, quello che si chiama oggi team up, era la squadra funziona e vale, perché mio padre si rendeva conto che, non avendo avuto possibilità di studiare, non avendo avuto un'istruzione, non conoscendo le lingue, doveva contornarsi di persone che potessero aiutarlo. Il senso di squadra e di famiglia allargata, come lui chiamava l'impresa che poi è arrivata ad avere oltre 3.500 dipendenti prima della sua morte, era veramente la grande forza. E questo è un messaggio che noi come famiglia, attraverso questo libro, ringrazio la città di Todi che ieri ha voluto anche dedicare una targa nei giardini pubblici, che quindi rimarrà a memoria di mio padre. Questo è il ricordo e la grande eredità, attraverso anche il rispetto per le persone. Nella prima copertina del libro Anna Mossuto, la direttrice del Corriere dell'Umbria, che ancora ringrazio, voleva mettere una foto di mio padre per ricordarlo subito, e invece noi abbiamo scelto di mettere una foto di una squadra di persone in cui al centro si riconosce mio padre, una foto in bianco e nero che ricorda l'alluvione di Firenze del 1966. Io avevo pochissimi giorni, mio padre era ancora un piccolo cottimista, il quale parte da Quadro di Todi a Firenze, era un viaggio all'epoca, e con i primissimi camion va a dare una mano. Quella è stata la sua prima trasferta, che in qualche modo gli ha fatto scattare il guizzo di andare fuori regione a lavorare. E quindi c'è questa foto della squadra che poi porta al grande successo, perché nell'ultima di copertina c'è invece mio padre seduto al tavolo con il presidente Gorbaciov, che abbiamo avuto l'onore di ospitare nella nostra casa di Todi nel 1996, quindi un personaggio che ha fatto le sorti del mondo e che vuole rappresentare come invece mio padre poi era diventato, permettetemi l'espressione, una persona importante che addirittura poteva permettersi di ospitare il presidente Gorbaciov a Todi. Quindi dalla squadra, dal senso del rispetto, dell'umiltà, si arriva a fare grandi cose, e queste grandi cose le abbiamo volute ricordare anche ieri nella celebrazione dei 30 anni delle borse di studio dedicate a mio padre, attraverso cui abbiamo premiato oltre 300 studenti su cui noi investiamo molto, proprio perché mio padre, non avendo potuto studiare, si rendeva conto di quanto fosse importante investire nella cultura e nella preparazione e nella competenza. Ecco, nel libro ci sono anche molte fotografie che illustrano, sì, appunto, la vita di suo padre, ma anche questa consegna di questi riconoscimenti, di queste borse di studio della Fondazione Todini. Tra l'altro parte del ricavato di questo libro sarà destinato appunto ad opere di beneficenza. Tutta la fondazione, per cui tutto ad opere per i giovani e di beneficenza. Quindi c'era anche in questa sua volontà appunto di andare oltre l'impresa, di pensare che l'impresa ha anche una missione da svolgere all'interno del territorio, un dovere di ridare al territorio un po' la ricchezza che ha avuto, in questa immagine appunto di suo padre, del suo legame, come si legge in molte delle testimonianze contenute nel libro, del suo legame molto forte con la sua terra. Senz'altro, la comunità di Todi ha dato molto a mio padre, a mia madre, alla mia famiglia, e si restituisce alla comunità, intanto rimanendo legati alla comunità, girando il mondo, varcando i confini, come io poi ho avuto modo di fare ancor più dopo la morte di mio padre, che purtroppo è avvenuta ormai da 16 anni, quindi mio padre è scomparso in età molto giovane, e quindi varcare i confini, ma tornare nella comunità fisicamente, perché poi tante attività aziendali io continuo ad investirle nella comunità di Todi, con una grande azienda agricola, accoglienza, il vino, quindi cercare di creare profitto per creare posti di lavoro e per creare la comunità. Ma anche se non si torna sempre fisicamente nella comunità, la si ha dentro, cioè le fondamenta e la base di quello che noi siamo sono fondamentalmente le nostre origini. Io ho avuto un'origine molto umile, perché poi il benessere lo ha assaporato più avanti nell'età, ma diciamo che i primi anni di vita in quest'altra piccola frazione dove era nata mia madre, dove poi si è sposato mio padre con mia madre, che si chiama Cecanibbi, ho piacere di dirlo perché è un onore per me, è stato un master di vita. Quindi la casa di pietra senza riscaldamento e senza acqua calda è il vero master di vita. E quelle sono le origini che rimangono, e mi fa piacere dire che questo libro è dedicato ai nipoti che mio padre purtroppo non ha potuto conoscere, Olimpia e Brando, Olimpia mia figlia e Brando il figlio di mio fratello Stefano, per ricordare sempre le strade del mondo, che sono appunto strade fisiche ma anche strade di vita. Certo, io vorrei concludere questo ricordo con Luisa Todini citando una piccola frase di Alessandro Profumo tra le tante testimonianze di questo libro, e Profumo dice: se devo pensare a tre aggettivi con i quali definirlo, mi vengono immediatamente in mente semplice, nell'accezione più nobile della parola, cioè capace di mantenersi uguale a se stesso nonostante i successi; coraggioso, per la capacità di andare in giro per il mondo senza tutti gli strumenti che abbiamo noi oggi; e affettuoso, per come parlava dei suoi figli e della sua terra, un affetto che sua figlia mi sembra abbia dimostrato di ricambiare ampiamente, di voler portare questa testimonianza, la testimonianza di Franco Todini, come di un imprenditore aperto al mondo, appunto coraggioso, capace di essere testimone, di realizzare grandi imprese, ma non solo per sé, soprattutto per gli altri. Grazie Luisa Todini. Grazie a mille. Grazie a lei e grazie per chi ci sta ascoltando, sperando che questo possa essere in qualche modo un tributo a tutti coloro che, come mio padre, hanno ricostruito l'Italia in un momento così complicato ma anche così emozionante. Certo, grazie Luisa Todini. Abbiamo parlato del libro Costruirò le strade del mondo, editrice Tau, sono 130 pagine per 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, a Carmelo Lauricella in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per settimana prossima.